Avete davanti i protagonisti. Porca miseria. Buonasera a tutti. Anche lei è stato. Un pochino. Iniziamo così la nostra serata, il nostro consueto incontro con l'autore e l'autrice che la biblioteca organizza per valorizzare il proprio patrimonio bibliografico e per così suggerire sempre delle nuove proposte di lettura. Fabian Fisti, che è l'autore di questo libro, Italiani alunni con le origini di un percorso, è una ricerca, parte anche da un approccio storico e antropologico con delle video interviste degli appunto italiani che sono nati e comunque residenti a Brunico e hanno prestato a Brunico la propria attività lavorativa, le proprie idee, insomma hanno contribuito alla crescita di questa città negli ultimi anni. Ecco, è stato premiato nel dicembre del 2017 dalla biblioteca perché ha partecipato al premio Claudio Augusto e quindi la sua tesi, il libro diciamo è una tesi editata, ecco, ringrazio anche l'associazione Diversitat che ha collaborato e aiutato insomma Fabian Fisti in questa ricerca e soprattutto poi nella pubblicazione. Quindi il legame con Fabian è rimasto dopo questa esperienza del premio Claudio Augusto e oggi si rinnova con questa conferenza che ci apre uno sguardo su una città che fa parte del nostro territorio ma che conosciamo magari passando, andando a fare delle gite e ha una sua storia, un suo percorso tutto da scoprire. Abbiamo anche un apparato iconografico qui alle spalle. Non voglio adesso dilungarmi molto, ne approfitto anche per ringraziare Luigi Spagnoli che spesso si mette a disposizione della biblioteca per aiutarci nell'accompagnamento di alcune presentazioni di libri, soprattutto quelli che riguardano il territorio che conosce molto bene e ringrazio in questa sede. Abbiamo per voi la giovedì 7 giugno, sempre in questa sala alle ore 18, un altro appuntamento dedicato alla memorialistica, sarà con noi Pietro David, che è un cittadino di Bolzano, adesso vive a Trento, ma ci racconterà e ci illustrerà il proprio memoriale, un giovane fortunato, quindi parlando della propria esperienza da adolescente, da giovane, durante la Seconda Guerra Mondiale qui a Bolzano. E infine ci avviamo verso la conclusione del primo semestre di attività con lunedì 11 giugno alle ore 18, sempre in questa sala, dove ricorderemo alcune donne partigiane del nostro territorio, e precisamente Emilia Menapace, Anita, Ada e le altre. Quindi c'è anche un omaggio alla nostra conterranea Turra che in quell'occasione compirà 100 anni. Vi invito a partecipare e sappiate che questi sono due appuntamenti, li abbiamo nelle cartoline, che a piacere di avere un promemoria può prendere. Ringrazio ancora i nostri ospiti a cui do il microfono e vi auguro a tutti una buona serata. Grazie. Grazie a Valeria Trevisan, la nostra direttrice, la ringrazio anche io di questo invito perché è un'opportunità per andare ad approfondire un tema che al di là del fatto che adesso ci occupiamo degli italiani di Brunico, perché è questo il tema del lavoro di Fabian Fisti, ma è un tema che riguarda un po' tutta la storia recente del nostro territorio. Voi sapete che il modo di studiare la storia che è in uso in Italia è un modo abbastanza particolare perché evita di arrivare all'ultimo periodo. Nella scuola di solito si studia la storia arrivando al Risorgimento, che diventa il momento apicale di un percorso di vita che arriva a una redenzione del popolo italiano attraverso il Risorgimento. Il Risorgimento si chiude normalmente con la Prima Guerra Mondiale, trattata in fretta e furia alla fine dell'anno scolastico, come momento finale del Risorgimento, quale in realtà è, e poi dopo il Novecento ci se lo dimentica, quando invece le persone che vivono oggi, la loro radice si forma sulla storia recente, non sulla storia antica. Questo volersi ostinare a cercare radici nella storia antica, che ha un pochino anche un'ascendenza nel fascismo, sul fascismo, a voler recuperare le radici romane per darsi una ragione storica maggiore, però è una fregatura, perché noi la nostra radice ce l'abbiamo soprattutto su quello che è successo riguardo alla storia che è accaduta con i nostri immediati predecessori, i nostri immediati antenati, quindi i genitori, i nonni, i bisnonni. E allora è meritorio il lavoro fatto da Fabian, perché va a indagare su un modo di essere che noi facciamo un pochino fatica qui a Bolzano a cogliere, perché Bolzano storicamente è città a maggioranza di lingua italiana. Ricordo che Bolzano durante il fascismo si è quintuplicata nel giro di 50 anni e si è quintuplicata con persone quasi tutte di etnia italiana, quindi Bolzano è abituata a vivere una realtà in cui l'italiano è la lingua maggiormente parlata. E nel resto della provincia non è così. Nel resto della provincia la maggior parte delle persone che hanno vissuto anche a lungo in centri anche grandi come Brunico ha dovuto convivere fin da subito con la componente maggioritaria di lingua tedesca. E quindi andare a studiare gli italiani a Brunico sembra quasi di andare a parlare di animali strani, non in via di estinzione, perché non si estinguono gli esseri umani. Gli esseri umani continuano a vivere e il loro ricordo continua a vivere in coloro che restano. Però sicuramente strani siamo, non ci sono tanti altri casi in Europa di persone che appartenendo a una certa estrazione culturale, linguistica, etnica, hanno vissuto in un contesto inserito nel loro stato nazionale, ma in cui la lingua maggioritaria parlata, la cultura maggiormente presente, era un'altra. Non sono molti. Quindi il lavoro fatto da Fabian è un lavoro veramente particolare, che meriterebbe di uscire anche dai confini della nostra terra. A noi ci interessa perché qui ci sono presenti persone originarie di Brunico e che ovviamente hanno anche interesse a vedere la loro storia diretta, ma è una storia particolare che merita di essere raccontata anche al di fuori dei nostri confini. E allora una cosa interessante che è citata all'inizio anche è che chi ha voluto questo libro è stato il vice sindaco Renato Stanker. Renato Stanker è stato, vorrei ricordarlo, il primo amministratore pubblico eletto in una giunta comunale in Alto Adige proveniente da partiti di centrodestra. Il primo in assoluto è stato, adesso ne abbiamo anche altri, c'è Cristian Bianchi all'Aives. Renato Stanker perché è diventato vice sindaco di Brunico? È diventato vice sindaco di Brunico perché Brunico è stata la prima città che ha superato l'antico legame di sangue tra la Volkspartei, prima la Democrazia Cristiana e poi il Partito Democratico. È andata così perché i numeri hanno voluto così, ma Renato Stanker ha dimostrato sicuramente di portare una sensibilità particolare. Questo libro ne era la testimonianza. Allora io vorrei chiedere una cosa a Fabian: che cosa lo ha spinto a fare proprio questo tipo di scelta per una tesi di laurea, mi pare questa, no? Per cui poteva anche sceglierne delle altre, ma ha scelto questa. E se c'è stato rispetto a questa scelta anche uno stimolo legato alla volontà di raccontare, alla possibilità di raccontare una storia in maniera diversa da quella che era raccontata normalmente in tutte le altre pubblicazioni sulla città di Brunico. Beh, grazie, buonasera a tutti quanti, grazie per essere venuti. E, ne approfitto subito per portare fra l'altro i saluti a tutti quanti, i ringraziamenti del vice sindaco Renato Stanker, che ho visto oggi e ha detto appunto non poteva esserci perché c'era giunta, ma comunque ci porta i saluti e quindi ringrazio la biblioteca per aver ospitato questa iniziativa. Partendo dall'idea sua, diciamo, l'idea di questo libro, va detto che la storia degli italiani a Brunico non era mai stata raccontata, quindi non è un aggiornamento, una rielaborazione, è una novità, si può dire, ed è una novità forse a livello provinciale. Adesso io non sono particolarmente informato sulle altre città, Bressanone e Merano, però una pubblicazione specifica sulla storia della comunità italiana di una città di periferia non l'ho ancora vista. Come dire, la storia degli italiani di Brunico è una storia recente. Non c'è molto da dire su questo punto rispetto a ciò che avrebbe preteso un Ettore Tolomei, che naturalmente vediamo fra i primi studiosi interpreti dell'italianità dell'Alto Adige. non si trattava di una città restituita alla sua romanità, alla sua italianità, si trattava fondamentalmente di una piccola città di periferia, di una regione di confine, in cui gli italiani sono arrivati un po' alla volta, a partire fondamentalmente dagli anni 60-70 dell'Ottocento. Come dire, a questo punto per il vice sindaco Renato Stanker si è arrivati a una necessità, mi verrebbe da dire quasi biologica, di salvare la memoria che si era accumulata nel frattempo. Purtroppo questo qui è un libro di storia popolare, un libro fatto da testimonianze di persone comuni, non ci sono studiosi di storia, ci sono operai, ci sono impiegati, ci sono imprenditori, insomma c'è uno spaccato della società, ma questo spaccato della società ha una storia da raccontare, ognuno ha una sua storia da raccontare, però è una storia che rimane spesso circoscritta all'ambito privato, quindi c'è una ricchezza di fonti, una diversità di provenienza, di esperienze, però rimane sempre un'esperienza rilegata all'ambito privato, alla sfera privata. L'intenzione di questo libro era di rendere per la prima volta pubblica queste esperienze, per cercare di dare una forma e di dare anche dignità a delle storie che, come dire, nella loro singolarità, nella loro specificità, sono fondamentalmente quelle che compongono la storia della stessa città. Cioè, una storia cittadina è una storia che passa necessariamente attraverso i suoi abitanti. Adesso, parlare naturalmente della parte italiana di Brunico significa parlare di una componente minoritaria, storicamente minoritaria, non si è mai arrivati o si è superato di poco il quarto della popolazione totale per quello che riguarda le dichiarazioni di appartenenza linguistica, e però appunto si tratta di, diciamo, formalizzare quella che è un'esperienza variegata e che non era ancora stata raccontata, per cui diciamo l'intenzione era di dare un tassello in più alla storia della città. Mi viene da dire che il risultato è stato molto al di sopra delle aspettative per quello che riguarda Brunico, perché è stato un testo che è stato scoperto da molti dopo la presentazione, moltissime persone ci hanno contattato, fra me, appunto Renato Stanker, l'associazione, da fuori per averlo, per in qualche modo riuscire ad avere una copia, perché erano legati in qualche modo alla città di Brunico, per parenti, per esperienze, per aver vissuto per qualche anno, insomma, lì. E quindi anche questo è un segnale che in qualche modo c'è interesse a riscoprire una parte delle proprie radici. E inizialmente, prima della stesura di questo libro, certo la questione di italiani e tedeschi per alcuni ha fatto anche storcere un po' un occhio, perché uno dice sì, però chissà, un testo che potrebbe essere pericoloso oppure fastidioso, chi lo sa, insomma, parlare di italiani e tedeschi, c'è sempre questo rischio di ricadere nella retorica politica. Diciamo che i risultati hanno sconfessato questi timori, perché fondamentalmente è stato riconosciuto come un testo abbastanza imparziale, mi auspico, e che soprattutto ha, diciamo, acceso e riacceso l'interesse da parte di molte famiglie che erano, nel frattempo, si erano allontanate e magari avevano anche dimenticato una parte della loro esperienza. Grazie Fabio, un applauso se lo merita, via, dai, fatto bel lavoro. Allora ti chiarisco subito, io un pochino le idee rispetto alla storia degli italiani in Alto Adige. A Bressanone, per esempio, Fausto Ruggera ha scritto un bellissimo libro in memoria dell'indimenticato prete Enrico Franco, che era un personaggio molto particolare. Giuseppe, scusi, Enrico è il direttore del Corriere dell'Alto Adige, è un mio lapsus. Giuseppe Franco, che era un prete straordinario, con una storia straordinaria di origini polesane, ma col padre che era commerciante di legname, che era andato a lavorare nell'ambito dell'impero austro-ungarico in Carinzia, e poi era finito, dopo aver studiato da sacerdote in seminario, era finito a Bressanone, e cogliendo la storia di Giuseppe Franco, il Fausto Ruggera ha scritto praticamente la vicenda degli italiani di Bressanone, ma quella era una vicenda pensata proprio come una storia di popolo. Questa invece è una giusta posizione di vicende personali. Devo dire che mi piace molto questa impostazione, perché quella di Fausto Ruggera, che era un abitante di Bressanone e che quindi ha vissuto in prima persona quelle vicende, era un po' anche in certa misura autobiografico, c'erano delle componenti anche di carattere personale. Tu invece qui riporti una serie di informazioni in maniera assolutamente asettica, e questo lascia al lettore la possibilità di cogliere aspetti che magari neanche si volevano mettere in evidenza, ma si colgono perché le persone intervistate sono tutte di una certa qualità. Non si tratta di persone qualsiasi, è gente che ha vissuto la propria comunità e l'ha vissuta in modo abbastanza appassionato. Io vorrei ricordare questo, che la Valposteria ha sempre avuto tutte le componenti territoriali altoatesine, hanno da sempre rapporti con componenti territoriali di lingua italiana, la Valposteria in particolare con il Comelico, con il Cadore, con l'Ampezzano. Poi possiamo ragionare in che misura italiano e in che misura ladino, perché l'Ampezzano era ladino, è diventata italiana quando Cortina è diventata il centro di vacanze dei VIP. Però c'era un forte interscambio anche, dal Comelico arrivavano gli artigiani, dal Comelico arrivavano quelli che aggiustavano gli utensili o portavano gli occhiali, dall'Alto Adige invece andavano in Comelico quelli che vendevano i gelatai, mentre invece dall'Alto Adige andavano in Comelico quelli che producevano le derrate alimentari. Cioè c'era un interscambio importante, e quindi c'è sempre stata una certa presenza italiana o, come dire, originaria di territori di estrazione linguistica più italiana o più latina, diciamo, anche in Valposteria. Ricordo anche che sotto l'impero austro-ungarico si era cominciato a fare i censimenti linguistici ancora nell'Ottocento, per cui non è che il censimento linguistico è una prerogativa dei giorni nostri, c'era già prima. Poi dopo non ho idea se siano recuperabili dati di censimenti linguistici in Valposteria, perché credo che gli archivi ottocenteschi dei comuni, non so in che misura sono ancora conservati, però potrebbe essere interessante in altri territori dell'ex impero queste notizie sono state raccolte. Allora, quello che volevo chiedere adesso a Fabian è se questa presenza, alcuni degli intervistati sono di chiara origine cadorina o del Comelico, altri meno, se questo rapporto tra territori è emerso in qualche misura nei suoi, perché i colloqui li ha gestiti lui, quindi è lui che ha guardato negli occhi gli intervistati e ci ha parlato, o se si può parlare, quello che voglio chiedergli è se si può parlare, se si deve parlare di una componente italiana in senso lato, o se si può dire che tra gli italiani di Brunico c'erano tanti italiani diversi, tra cui appunto quelli originari del Comelico, che avevano una loro storia di collegamento con la Posteria, su cui magari torneremo dopo, e altri che invece venivano da più lontano, la cui storia evidentemente era diversa, e questa differenza si manifestava in qualche modo, e come? Beh, direi che gli italiani a Brunico è una semplificazione grammaticale. In effetti non esiste, potremmo dire in maniera abbastanza provocatoria, che non esiste una comunità italiana, esiste un gruppo che parla la lingua italiana, esiste una componente di più lunga data, esiste una componente di recente arrivo, perché naturalmente anche negli ultimi anni continuano ad andare o a partire delle persone, però è sicuramente una comunità nata da delle diversità, insomma una comunità che un gruppo linguistico, come vogliamo chiamarlo, che inizialmente era formato da appunto bellunesi, cadorini o del Comelico prevalentemente, e in seconda istanza di trentini. Fra l'altro i censimenti austriaci io li avevo trovati, perché fortunatamente gli austriaci sono molto più precisi di noi nell'archiviazione digitale, per cui senza dover fare il Brennero diverse volte ho potuto andare sul portale internet dell'archivio di Stato austriaco e sull'archivio di Stato tedesco, e si vedono diciamo, le digitalizzazioni degli archivi austro-ungarici, soltanto che quelli traggono un po' in inganno perché la voce italiana non è inserita, cioè per il Bezirk Pustatal sono inseriti i tedeschi e i ladini. All'interno di quei ladini possiamo supporre che ci fossero degli italiani. Talvolta, devo anche dire, si trovano i tedeschi e gli italiani e non si trovano i ladini, per cui non si riesce mai a capire esattamente se si trattasse di popolazione della Valbadia, della Val Gardena, oppure più che altro della Valbadia, oppure effettivamente di italiani. Però per avere un rapido scorcio di quelle che sono state le vicende italiane prima dell'annessione, perché poi il gruppo di lingua italiana di Brunico nasce fondamentalmente dopo il 1918, ci sono, diciamo, un paio di esperienze emblematiche di questa esperienza. La prima è la costruzione della ferrovia, che è stata, insomma, la ferrovia della Musteria segue alla costruzione della ferrovia del Brennero 1869-1874, in pochi anni, rapidissima come costruzione, e che è stata effettuata da manovali provenienti soprattutto dalla Carnia, quindi dal Friuli. Naturalmente c'erano anche persone del posto, operai del posto, però questi operai sono arrivati in massa, veramente si parlava di centinaia e centinaia di persone che lavoravano su questa ferrovia, hanno anche dato luogo ai primi matrimoni misti, alcuni sono rimasti, alcuni locali avevano aggiunto le scritte in lingua italiana, del Gasthof erano diventati alberghi, alcune locande erano diventate anche diciamo italiane per la frequenza, diciamo, di questi operai, però appunto al di là di alcuni casi di matrimoni misti, diciamo, questa esperienza qui è abbastanza limitata, perché una volta conclusasi la costruzione della ferrovia, la maggior parte di questi operai naturalmente è ritornata nei propri luoghi d'origine. In secondo luogo sono arrivate le prime industrie in cui gli italiani della regione del Veneto soprattutto lavoravano, che erano le segherie, e lì già prima dell'annessione c'erano alcuni casi. Oltre a quello magari più famoso nella zona di Brunico dell'imprenditore Domenico Matile, anche lui friulano, una ditta di costruzioni molto grande, fra l'altro è stato colui che ha costruito anche il vecchio municipio che si vede nella copertina del libro, un edificio molto bello purtroppo che è stato abbattuto negli anni 60, e quindi con questi, diciamo, piccoli passi si è impostata la prima presenza di italiani. In molti casi invece erano degli stagionali, quindi non si può considerare una presenza stabile, gli stagionali che lavoravano per esempio dai pressi contadini come aiutanti, come garzoni, gli operai, i carpentieri e così via, però persone che avevano una presenza abbastanza saltuaria. Mentre poi il grande afflusso si è vissuto soprattutto dopo l'annessione e chiaramente negli anni 30, gli anni, diciamo, di maggior consenso, di maggior potere del regime fascista, dove i trasferimenti erano dei trasferimenti pianificati chiaramente dallo stesso regime per sostituire o per accrescere la popolazione di lingua italiana nei territori di confine. Eh sì, perché Brunico, tra l'altro, tutti sappiamo che prende il nome dal vescovo Bruno di Kirchberg ed è un rarissimo caso di toponimo altoatesino che fa riferimento a un nome di persona. L'angolo di Bruno, Bruno e Eck, che vuol dire angolo, no? Tra l'altro qui c'è una cosa abbastanza carina da raccontare, perché Brunico, noi diciamo tutti Brunico perché si dice Brunico, però sappiamo che l'espressione italiana tende a mettere l'accento sulla penultima, no? La lingua italiana è una lingua piana e gli accenti si mettono ordinariamente sulla penultima, le parole sdrucciole sono quelle che hanno l'accento sulla terzultima, sono abbastanza un'eccezione, per cui in prima istanza l'italiano mette sempre l'accento sulla penultima e quindi dice brunico. Qui forse ci dice qualcosa Fabian rispetto all'uso dell'espressione brunico soprattutto nel primo periodo dopo l'annessione. Sì, di recente l'hanno anche sostituito alle voci del treno, perché se si andava in treno fino a pochi mesi fa, fino a qualche anno fa, la voce diceva prossima fermata Brunico, adesso l'hanno sostituita. Però Brunico oggi, detto a Brunico, viene detto o dalle persone particolarmente anziane che hanno vissuto in prima persona il periodo del fascismo, oppure effettivamente dai turisti che arrivano magari senza conoscere la pronuncia corretta, dicono per la prima cosa Brunico. Ritornando al mai tralasciato Ettore Tolomei, si legge nei suoi archivi per l'Alto Adige, la rivista annuale che usciva prima dell'annessione, lui aveva coniato tutti i toponimi della provincia e anche della Valpusteria, che suonano oggi abbastanza, in maniera abbastanza simpatica. Insomma, Brunico, prima di essere Brunico, era Brunecco, Dobbiaco era Toblacco, no? Perché Toblac diventava Toblacco, Riscone, nella frazione di Brunico, Raishak, era Raissa, nelle primissime traduzioni. Raissa, che era mutuato, diciamo, dal tedesco Reichshank, diventava Raissa. Comunque sì, Brunico è, sì, diciamo, grammaticalmente corretta perché l'accento va sulla penultima sillaba. È stato utilizzato appunto durante il periodo del fascismo come uno strumento per allontanare ancora di più la pronuncia da quella tedesca. Chiaramente il termine legale, legislativo, in utilizzo era unicamente Brunico, ed era stato specificatamente chiesto al podestà di accentuarla in ogni insegna pubblica, per cui la parola era scritta con l'accento sulla I. Sì, fra l'altro questo esempio del nome è un po' paradigmatico di quella che è stata l'esperienza del fascismo a Brunico, che magari potrebbe anche essere interessante approfondire rispetto a Bolzano, che è chiaramente il centro simbolico della nuova provincia e il luogo nel quale l'azione del regime è stata più forte, prima di tutto dal punto di vista simbolico, monumentale, così. Ecco, Brunico è, diciamo, invece costellata di piccoli mutamenti strumentali senza un grande piano come poteva essere quello di Bolzano. Adesso vediamo se... vediamo di parlarne, perché quello che è successo a Brunico subito prima della guerra, abbiamo visto, c'è stata anche lì una certa crescita demografica, anche legata a una naturale crescita economica che è avvenuta in tutta Europa dopo la Grande Depressione dei fine anni 20, quindi ci sono delle cose che succedono non perché siamo in Alto Adige o perché siamo in Italia, ma perché siamo già in un mondo preglobale, no? Preglobale, perché ancora non eravamo globali, ma insomma seguivamo le tendenze. E però poi c'è stata la guerra e poi c'è stato il dopoguerra, e nel dopoguerra ovviamente sono venute fuori anche a Brunico, anche in Valpusteria, le contrapposizioni che poi sappiamo benissimo, laddove ci sono dei confini etnici, sono contrapposizioni che prendono sempre sfumature etniche, le contrapposizioni si fanno tra diversi, quando si parlano lingue diverse la prima differenza è la lingua che si parla. E quindi anche lì c'è stata, poi dobbiamo anche dire un'altra cosa, gli italiani più fascisti per tradizione erano gli italiani di periferia, perché sono quelli più lontani dal centro che si sentono più minacciati nel loro essere, etnia, nel loro essere nazione, e quindi sono quelli che diventano più estremi. E allora dopo la guerra si verificano alcuni episodi, si verificano degli episodi legati proprio alla rivalsa. In primo tempo, dopo il 43, c'è stata la fase in cui la popolazione altoatesina di lingua tedesca, senza essere a conoscenza dei misfatti e delle deviazioni del regime nazista, si era sentita un po' tornare a casa, quando torna a esserci un regime col Gauleiterhofer di lingua tedesca. Nel tempo in cui mi è accaduto di essere sindaco di Bolzano, c'è stato in questo senso anche un episodio che ha coinvolto un brunicense, Oswald Delle Costa, era vice sindaco di Bolzano nel 2009, ed ebbe, ve lo ricordate, quella uscita non felicissima in cui disse: il nostro 25 aprile è stato l'8 settembre del 43. Oswald Delle Costa è persona troppo seria dal punto di vista intellettuale per pensare questo in senso negativo. Non pensava minimamente a paragonare davvero il 25 aprile con l'8 settembre, cosa che invece è stata ripresa su tutti i media nazionali. Ma Oswald Delle Costa voleva semplicemente dire che il sentimento della popolazione di lingua tedesca nel momento in cui con l'8 settembre viene meno il regime fascista e arriva un governante di lingua tedesca è stato affine, con i dovuti distinguo, e poi, per quello che la storia ci ha insegnato dopo, con un distinguo fondamentale che spazza via tutto, cioè il fatto che il 25 aprile porta in Italia la democrazia, l'8 settembre portava in Alto Adige la dittatura nazista, quindi una differenza sostanziale. Però questo fatto ha portato a far sì che queste contrapposizioni etniche si sono in brevissimo periodo trovate ad avere momenti diversi, con un gruppo davanti, un gruppo di dietro, poi, e quindi c'erano i fascisti del Comelico nel dopoguerra, quando l'Alto Adige rimane Italia nonostante le speranze dei sudtirolesi, che vengono dal Comelico a far valere il fatto di essere italiani. Oswald Delle Costa questo lo raccontava a me, lui era bambino allora, suo padre era l'oste in piazza Cappuccini, dove c'è il monumento all'alpino, e questa osteria del padre di Oswald, del padre dello zio di Oswald Delle Costa, era stata teatro di numerosi momenti un po' di tensione tra le persone che venivano dal Bellunese e che si facevano forti del fatto che eravamo ancora in Italia, e la popolazione locale, che ovviamente all'ombra dell'alpino, perché in piazza Cappuccini c'è l'alpino, e non era molto contenta di sentirsi prendere in giro per questo. E quindi si sono create delle situazioni che poi hanno portato anche agli scontri e alla storia di questo monumento all'alpino, che è un po' il simbolo della contrapposizione etnica di Brunico, che ha avuto una vita un po' infelice, diciamocelo, no? E allora magari adesso ci facciamo raccontare da Fabian un pochino che cosa è successo in quel periodo. Lui qualcosa scrive qui, ma sono convinto che scrive alcune cose, ma ne ha approfondite molte di più. E poi lasceremo un momento magari di confronto, certo. Perché è chiaro, io racconto sulla base di fonti che ho trovato, sulla base di testimonianze che ho ascoltato, ma questo è un bene e anche un male, perché chiaramente non ho l'esperienza diretta, però ho anche un po' l'imparzialità della visione forse comune. Comunque sì, per quello che riguarda l'esperienza del fascismo brunico, è per certi versi un unicum, se pensiamo per esempio che anche a Brunico c'è stato un podestà di madrelingua tedesca. L'unico caso di città rilevante era quello di Merano, dove c'era Markart, che era appunto di lingua tedesca ed era podestà. E Richard Hitler, o Riccardo Hitler naturalmente nel periodo fascista, ha avuto anche il passaggio da sindaco a podestà, perché era, vedo qua, sindaco dal 1920 al 32, e dopodiché una serie di podestà italiani di origine varia, da un siciliano a un piemontese a un lombardo, e così. Comunque, la questione della contrapposizione è chiara. Le tensioni si erano create, si erano accumulate nel corso di questi 20 anni. Il fascismo è stato naturalmente percepito in una zona a larghissima maggioranza di lingua tedesca, comunque sempre come un ospite sgradito, perché la percezione di italianità era giunta in maniera relativa nelle zone più periferiche. Certo, erano arrivati i militari, erano arrivate le costruzioni, erano arrivati alcuni simboli, però comunque la società rimaneva fortemente incatenata, incastrata in quelle che erano le strutture sociali fondamentali, cioè le famiglie, le grandi famiglie commerciali. I commercianti continuavano a gestire i loro commerci. C'era stata certo una fase durante gli anni 30 in cui la politica fiscale del regime aveva favorito chiaramente i passaggi di proprietà dalle attività di lingua di lingua tedesca alle attività di lingua italiana. È stato un modo per inserire anche nel centro storico di Brunico, dove ogni famiglia aveva la propria casa, il proprio negozio, la propria bottega, anche delle attività commerciali italiane. Altrimenti gli italiani erano soprattutto inseriti attraverso i trasferimenti o nei quadri dell'esercito o nei quadri degli enti statali che si andavano formando, le poste, le assicurazioni, il catasto, gli uffici pubblici, insomma, gli uffici statali, oppure delle industrie, e queste delle industrie è anche un fattore, diciamo, di crescita demografica per gli italiani di Brunico. Parlando un po' di cifre, comunque noi abbiamo un Brunico negli anni 30 di circa 4-5 mila abitanti, in cui comunque gli italiani erano 1.000-1.500, cioè la cifra è comunque sempre abbastanza limitata. Non ci sono state delle costruzioni di quartieri, come naturalmente è stato qui a Bolzano. Ci sono delle case, l'Incis, chiaramente destinate agli impiegati statali, c'erano le case dei ferrovieri costruite durante quel periodo, però appunto tutto quanto abbastanza relativizzato rispetto alla grandezza della città. Comunque, l'esperienza dei giovani, degli anziani che ho intervistato, che all'epoca erano giovani, era chiaramente molto diversa, cioè loro giocavano con la stessa facilità con cui oggi i ragazzi giocano, senza guardare il colore della pelle o provenienza religiosa e così via. Con la stessa facilità loro giocavano nei cortili di casa con le famiglie di lingua tedesca, ed era un modo anche per loro di rapportarsi in maniera molto efficace con la parte di lingua tedesca. C'erano chiaramente molte famiglie bilingui. Fra l'altro il matrimonio misto veniva anche in un certo modo ben visto dal fascismo per una questione di italianizzazione. Poi magari succedeva il contrario, però era facilitato dal fatto di rendere italiane le molte famiglie tedesche, no? Comunque, insomma, nei cortili si giocava, però chiaramente il mondo degli adulti era diverso. Molti avevano perso il lavoro, soprattutto il settore pubblico, cioè gli impiegati erano stati sostituiti mano a mano. Ci sono diversi casi in cui chiaramente con dei pretesti molto fantasiosi venivano licenziati per sostituirli a popolazione di lingua italiana. La parte più difficile da estromettere era chiaramente quella dei contadini possidenti terrieri, e c'è stata l'occasione propizia delle opzioni. Il primo caso in cui anche molti masi sono passati nelle mani di persone di lingua italiana attraverso l'ente Tre Venezie, no? Dell'ente per le Tre Venezie, esatto, venivano acquistati da questo ente che rivendeva le famiglie italiane. Fra l'altro queste erano famiglie di origine contadina, molti facevano il passo, diciamo, da contadino a operaio, passando dalle vecchie province all'Alto Adige e a Brunico anche. In questi casi si passava dall'essere magari un bracciante agricolo a un possidente terriero. Era chiaramente un affare per le famiglie italiane. Certo è che finito il periodo delle opzioni, finita anche la guerra, c'è stata la Rücksiedlung, il ritorno di molti optanti. Alcuni sono riusciti a destreggiarsi bene e attraverso, diciamo, vari passaggi sono riusciti anche a riottenere le loro vecchie proprietà. A Brunico si riporta ancora una famiglia che nel frattempo chiaramente è diventata molto grande, sia anche diciamo varia dal punto di vista linguistico, che sono i Casarotto di Teodone, che sono ancora un'azienda agricola, l'unica rimasta azienda agricola, diciamo, di questo periodo. Le tensioni accumulate chiaramente scoppiano alla prima occasione, che è data dal 8 settembre del 43, la caduta, la disfatta militare dell'Italia, il momento in cui veramente non esiste più una legge, non esiste più uno Stato costituito, e a Brunico si festeggia l'ingresso delle truppe tedesche, che vengono visti come dei liberatori. C'era già stato un anticipo abbastanza inquietante per il regime nel 1938 con l'Anschluss dell'Austria, in cui c'era stato un fermento da parte della popolazione tedesca dell'Alto Adige, e aveva destato non poche preoccupazioni al regime italiano. Chiaramente nel 1943 il desiderio del 1938 che le truppe tedesche superassero il Brennero per scendere fino in Alto Adige si realizza, e la provincia di Bolzano, insieme alla provincia di Trento, insieme a parte del Friuli, diventa di fatto una pendice del Grande Reich tedesco. Il monumento all'Alpino, costruito nel 1938, viene distrutto. Poi non è chiaro, insomma, i veri responsabili, però insomma si dice che fossero delle persone del posto, i chiari antifascista in chiave fino nazista, e inizia quel periodo molto buio per la popolazione di lingua italiana, che è quello del 43-45, un periodo su cui ancora è difficile fare storia, è un periodo abbastanza breve. Non solo lì, anche in Italia. Chiaramente è un periodo molto, molto, cioè, abbastanza breve, si tratta di un anno e mezzo, ma è il periodo di governo nazista in Alto Adige, di sostituzione di nuovo delle amministrazioni da italiane a tedesche, ed è anche il periodo dei bombardamenti, perché poi fondamentalmente nel 1943 già la guerra ha preso una piega verso la disfatta, l'Italia è divisa a metà, inizia il periodo della resistenza partigiana, nel nord chiaramente molto forte la presenza tedesca, e nel 1944 irrompono poi le forze armate statunitensi con la aeronautica militare, quindi iniziano i bombardamenti. Bolzano ha un'esperienza diciamo drammatica da questo punto di vista, proprio qui, tra l'altro nel centro, la galleria del Virgolo, no? Perché nel senso anche mia nonna, che è di Bolzano, mi racconta insomma delle esperienze che alcuni avranno anche vissuto in prima persona. E quindi anche a Brunico, diciamo, c'è una certa resistenza a parlare di questo periodo. Questa è stata, diciamo, ancora una mancanza, per cui esistono delle resistenze, dei tabù che ancora devono essere infranti. Uno ancora più grande è probabilmente quello del periodo degli attentati, cioè anche lì una sfida sarebbe riuscire a creare una narrazione. A me piacerebbe prossimamente creare una narrazione della seconda parte, diciamo, di queste storie, che vada negli anni 50, 60 e 70, e chiaramente poi bisogna confrontarsi con quella che è stata la lotta armata clandestina di alcune parti di lingua tedesca, che non va tenuta, insomma, in secondo piano. Eh sì, ci hanno provato le Terrani sul Bühnen Putzen con quell'iniziativa teatrale di un paio di anni fa, Feuernacht, che ha raccolto testimonianze proprio di quel periodo. Beh, sì, c'è una, forse a questo punto, per rendere un po', ravvivare un po' l'ambiente, si potrebbe raccontare del perché il Alpino di Brunico in lingua tedesca si chiama Bastl. Tu sicuramente lo sai, o forse no, non lo so, perché è una cosa un po' particolare, una storia particolare. Sai se lo racconto io? Diciamo che dovrebbe essere una specie di... noi abbiamo fatto una piccola analisi con la nostra associazione, sì. Una raccolta di testimonianze sulle esperienze dell'Alpino e i modi in cui veniva chiamato. Adesso io racconto quella che sì. Saprei io, poi ci confrontiamo su quello. Cioè, il Cappuccino Rush dovevamo anche capire se era in termini, se era considerato in termini negativi, dispregiativi, oppure popolari. Nel senso, noi siamo arrivati a una considerazione più che altro di una chiamarlo come il tizio, il bastianino della piazza Cappuccini, come dire, la persona. Dovrebbe esserci dovrebbe esserci stato un monaco del convento dei Cappuccini, vicino, che chiamavano il Bachelet. Allora lui era, forse che andava a dare i fiori, non lo so, alla corona, una cosa di genere. Comunque girava vicino a quella statua e da lì viene il nome, insomma, il tizio della piazza Cappuccini. Sì, Basel in tedesco vuol dire, è un'abbreviazione di Sebastian. La storia, adesso ovviamente qui si riportano, relata Refert, perché non è che abbiamo vissuto direttamente quell'epoca, ma il Sebastian era un frate cappuccino che aveva il compito nell'ambito della città di aiutare i poveri. Quindi era uno che faceva la questua per aiutare i poveri, per fare la questua si tende la mano. Quando il monumento all'Alpino viene fatto esplodere la prima volta, il monumento all'Alpino era fatto in questo modo, cioè l'Alpino col fucile davanti così, no? E quindi quando esplode la prima volta il monumento all'Alpino rimane su tutto intero, non viene fatto saltare tutto. La prima volta salta solo la parte più fragile. Cosa salta? Il fucile, perché il fucile era molto sottile. E quindi rimane sto alpino con la mano tesa davanti senza il fucile, no? Che guarda caso somigliava moltissimo come atteggiamento al povero Sebastian, al cappuccino Sebastian, detto Bastl, che andava a chiedere la questua. Quindi probabilmente il fatto che l'alpino chiedesse la questua era visto dalla popolazione sudtirolese con un certo godimento interiore, perché sicuramente c'era una componente psicologica che lo rendeva gradito, ecco. Per cui questo alpino con la mano tesa fuori diventa il Bastl, poi salta per aria, tutto rimane soltanto la faccia, ma rimane poi il Bastl per sempre. È una storia, secondo me, estremamente rappresentativa di come il popolo sudtirolese, che è un popolo che ha una fortissima componente ironica, non troppo autoironica, ma ironica sì, ma ironica sì, ogni tanto coglie degli aspetti particolari in maniera anche abbastanza simpatica. Bene, io chiuderei con l'ultima domanda, perché qui alla fine il libro è anche, come detto, una giusta posizione di interviste. Ci sono personaggi molto diversi intervistati, ovviamente anche di spessore diverso, perché è ovvio che non tutti siamo uguali, ciascuno ha portato però un forte contributo alla comunità italiana. Io vorrei chiedere a Fabian, quali di questi personaggi lo hanno particolarmente colpito? Io ne ricordo un nome, quello della preside Pandini. Io ho fatto l'insegnante a Brunico per alcuni anni alla scuola media, era la mia preside, mi fa particolarmente... Che dice Brunico nelle interviste. Esatto, mi fa particolarmente piacere ritrovarla qua, ma era un bel personaggio in Diana, nel legno, quella donna lì era particolarmente tosta. Era soprannominato il Zulù, perché lui ogni volta che noi altri ci comportavamo in un modo non tanto civile, ci continuava a rimproverare dicendo che sembrate dei popoli che avete vissuto nella tribù degli Zulù. Ecco. Allora, dicendo così, lui si è autonominato Zulù, e quando arrivava la mattina alle 8:15 con le mani sempre così, come se fosse stato uno scimpanzé, perché aveva le mani sempre così lunghe, non è l'unico, ecco, sta arrivando Zulù, allora tutti... Questo però è interessante, perché vedete, gli italiani venuti in Alto Adige, ricordiamolo, sono arrivati negli anni 20 e 30, che erano gli anni dell'ultima fase del colonialismo dell'Europa nei confronti degli altri continenti, anzi il colonialismo si era già esaurito per quello che riguarda gli altri paesi, ma non l'Italia, che essendo arrivata per ultima aveva acquisito la mentalità colonialista molto più tardi. E quindi, arrivando qui in un territorio dove oggettivamente il livello culturale era piuttosto basso, molti italiani avevano uno spirito analogo a quelli che andarono a Tripoli, a quelli che andarono in Eritrea, portavano la civiltà. Ora, no, i sudtirolesi sicuramente non ha fatto piacere ritrovarsi degli italiani che gli portavano la civiltà, ma di fatto l'approccio è stato un po' così, e secondo me questo episodio, questa vicenda dello Zulù è rappresentativa di questa mentalità. Però torno alla mia domanda e poi dopo passiamo a fare una chiacchierata insieme. Sì, tra l'altro aggiungo solo che lo stesso momento all'Alpino è proviene da un'esperienza coloniale, perché certo. È il monumento ai caduti della quinta divisione Busteria nella guerra di conquista della Messina, dell'Etiopia, per cui viene costruito effettivamente nel 38, a conclusa la guerra di conquista della Messina, per commemorare i caduti di quella guerra. Quindi c'è un po' di colonialismo anche in quella piazza, che tra l'altro veniva chiamata appunto in quell'epoca piazza 9 maggio, dal giorno della proclamazione dell'impero da parte di Mussolini. Comunque queste persone, poi insomma, sarebbe banale dire che ciascuna chiaramente è speciale nel suo. Ci sono alcune storie che sono particolarmente rappresentative, sicuramente quella di un Dante Pochiesa, diciamo è una di queste. Lui è proviene dal Comelico, è ancora vivo, è uno dei più anziani che ho intervistato, è del 20, lui ha costruito, esatto, lui ha fatto la sua fortuna con le scarpe, proveniva da una famiglia di ambulanti. Esatto, loro facevano i mercati e dopo la seconda guerra mondiale si sono stabiliti, diciamo così. E lui poi ha un'esperienza diretta della seconda guerra mondiale veramente molto molto singolare, perché si è fatto la Russia, quindi tutte le grandi narrazioni della Russia, insomma lui l'ha vissuto in prima persona, sono rarissime ormai le persone che possono testimoniarlo per presa diretta, diciamo. Si è fatto la prigionia in Germania, quindi è stato internato in un lager, era fra gli internati militari italiani, IMI, e la sua esperienza è interessante anche perché dimostra un po' le difficoltà da parte di una persona di lingua italiana di fare attività commerciale, di fare impresa nell'immediato dopoguerra, perché chiaro, se nel 43 avevano festeggiato i tedeschi per l'arrivo delle truppe naziste, e qui va detto che c'era stato un furore di popolo a Brunico e in Alto Adige, cioè non va nascosto, però alcuni erano comunque contrari. No, ci sono delle immagini molto chiare, diciamo, riguardo a questo periodo. Quando sono arrivati gli americani nel 45, beh, insomma, la parte tedesca non è che fosse proprio nelle piazze a festeggiare, invece c'erano moltissimi tricolori, cioè era ritornata l'appartenenza all'Italia, no? Comunque insomma c'erano dei malumori chiaramente per la popolazione nel secondo dopoguerra, e Dante Pochiesa li ha un po' vissuti nella difficoltà di trovare delle licenze, no? Una serie di espedienti per rimandare, diciamo, la possibilità di acquisire un lotto, una casa per fare attività commerciale, eccetera eccetera. Insomma, ci ha messo diversi anni prima di poter avere finalmente un negozio a Brunico, dovendo fare sempre appunto l'ambulante. Comunque questa è un'esperienza, diciamo, abbastanza emblematica di quello che era la difficoltà di fare commercio appunto nel secondo dopoguerra per la parte di lingua italiana. Bruno Melchiorre, chiaramente anche lui è ancora presente, ancora lucido, è stato la rappresentazione politica, potremmo dire, della comunità di lingua italiana in tutto il secondo dopoguerra. Cioè lui si è fatto, credo, 5 legislature, non so se adesso sia ancora legale fare una cosa del genere, comunque insomma dagli anni 50 fino agli anni 80 lui è stato consigliere comunale, assessore per la Democrazia Cristiana, e quindi si è visto tutte. Scusi, ma siete ancora a Brunico? È ancora a Brunico, sì. A Brunico? È ancora a Brunico. Sì. E quindi lui raccontava, oltre alla gioventù durante il periodo del fascismo e della guerra, tutta la parte del secondo dopoguerra, che non è particolarmente presente in questo libro, ma comunque lui ha esperienze di quelli che sono stati gli anni più difficili di convivenza, dalla prima legislatura fino agli anni appunto del terrorismo, in cui la zona della Busteria era abbastanza inattiva, la Valle Aurina era una delle zone piuttosto pericolose, e quindi è un testimone d'eccellenza per questo. Chiaramente Giorgio Marcati, direi come terzo, se mi dispiace che ci sono anche delle figure femminili molto importanti, però diciamo adesso limitandoci a tre figure di riferimento, direi il Podestà, Marcati diventato Podestà, esatto, fra l'altro non so in quale modo potrebbe essere collegato con Marcart, magari di Podestà. Infatti loro provenivano da questa famiglia che erano, sì, chiamati Marcart, esatto, e infatti poi sono stati italianizzati in Marcart, esatto. Il signore è molto informato, è esattamente quello che mi ha detto anche Giorgio Marcati, che è il figlio di Carlo Marcati, che era Podestà. No, non è figlio di Sambre, è figlio del Podestà, Sì. Sandro invece era il fratello maggiore dei quattro fratelli che c'erano, perché erano Sandro, poi c'era Giorgio, poi Umberto, sì, e poi la ragazza che era quella che aveva sposato il maggiore capiccioso, che è stato in Russia e poi è riuscito a ritornare. Ecco. Sì. Erano sì, quattro i figli di mercati. Esatto, sì, sì. Sandro era più vecchio. Commerciava nel legname. Sì, infatti, ecco, la loro è una famiglia trentina. Non come i Colleoni, perché la famiglia più grossa, io aspettavo che lei venisse fuori con questo detto, perché a Brunico si è insediata una grande azienda, ma allora era veramente grossa. C'erano italiani e tedeschi che lavoravano, i più tanti erano gli italiani, ed era la famosa ditta Colleoni, che venivano dal Bergamasco. Aveva piantato a Stevona un'azienda che era enorme. Noi che eravamo studentelli d'estate andavamo là per inchiodare cassette da Colleoni, con un orario che era dalle 7 alle 12 e dalle 1 alle 6. Per guadagnare qualcosa. Ci dovrebbe essere anche una delle immagini che passa, ma è questa qua. Queste sono gli operai della segheria Colleoni. Sono di Colleoni quelli là? Sì, sì, sì, sì, sì. Siamo passati tra l'altro oggi venendo a... Siamo passati davanti alla ex zona Colleoni, che è diventata anche quella una zona edificabile, per cui a Stegona. Si rifletteva tra l'altro sulla ormai perdita anche dei punti di riferimento storici, cioè una città che adesso vive fortunatamente una crescita economica, turistica, demografica abbastanza alta, e che però spesso, se non si richiama un attimo la memoria, perde anche proprio i punti di riferimento storici. Ovviamente la strada Colleoni era inutilizzata già una decina di anni, perché è rimasta in attività fino agli anni 90, mi sembra, e ovviamente il mercato immobiliare è molto più redditizio del mercato del legno, non è più molto attivo, e quindi è diventata una zona edificabile. Però sì, certo, Colleoni Ambrosione era una grande famiglia di bergamaschi. Esiste ancora il figlio Cesare Colleoni, che Cesare è già a Brunico. Sì, c'era una casa lì e di conseguenza lui è rimasto direttore di azienda fin tanto che hanno chiuso, comunque è rimasto lì. Esatto. Comunque sì, era l'anima di Stevona, colui che l'ha fatta crescere, perché Stevona è una di quelle zone con la più alta percentuale di popolazione di lingua italiana. Molti sono arrivati a abitare a Stevona proprio perché c'era la Colleoni, quindi molti operai sono stati. Ma direi che il pubblico magari si preme per dare la. Direi anch'io, direttrice, come facciamo qua? Giro io col microfono? No, tanto siamo. No, nel senso che credo che sia il caso di fare un po' ora. Lasciare spazio a un po' di interventi che non devono essere domande ma anche considerazioni, poi magari facciamo chiudere a Fabian questa conversazione, che mi pare che sia stata molto carina e interessante. Prego. Signora. Io vengo citata su questo libro. Merita. È il mio grande amore, per lo studio da 6 anni, figurarsi se mi interessava. No? Merita di essere citata forse la sua esperienza, perché questa è anche la bellezza, diciamo, della storia. Era la vedova dell'ufficiale degli alpini, no? Che aveva aperto il metro. E io ero nella sua prima classe, e poi quando le scuole le hanno chiuse, e poi c'è stato il primo giorno di ritorno, e lo so io. Consideriamo diciamo il contesto della seconda guerra mondiale, dei bombardamenti a Brunico, delle sirene eccetera eccetera. Le sirene erano all'ordine del giorno, a un certo punto gli studenti non andavano neanche più a scuola, no? E la casualità, che è anche un po' la bellezza di questo lavoro, di questa attività di fare storia, è trovare fra chili di registri impolverati di un archivio scolastico una nota di un insegnante che adesso sto cercando, che Pratti, Carmela, no, Antonino. Vediamo. Comunque no. Qui con la spiso tu, guarda. pagina 30 nella nota. Esatto, cronache. Ma non è importante. Sì, ecco, quello così, i miei alunni, con i miei alunni, questo è quello che scrive una insegnante durante in un registro del 44. Così con i miei alunni andiamo a fare lezione nell'aula di quinta classe alternando i giorni con quinta classe. Oggi era presente una sola bambina, della quale metto qui il nome perché va segnalata per il suo zelo e coraggio. Si chiama Piera Peroncini, il suo amore per lo studio le fa sfidare i pericoli. Questa, ovviamente, io non conoscevo lei, non avevo nessuna idea di tipo, però ho detto: questa nota è talmente particolare che la inserisco anche nel testo. Casualità vuole che poi viene letto anche dal figlio, che lo riferisce alla madre. Cioè, io penso che sia un piccolo momento comunque molto molto carino, e alla fine si è arrivati alla testimone diretta di questa nota che io ho inserito in maniera abbastanza casuale, diciamo, cioè più trovato più che altro, senza sapere neanche che fosse, senza sapere che fosse il tale. Che anni erano questi? 44? Questo era nel 44, non so se era primavera del 45, durante la guerra. Sì comunque allora 45, 8 marzo 45, proprio gli ultimi mesi. 8 marzo 45. Allora c'era ancora la guerra. Certo, ancora la guerra. Sì. Io venivo da Verona, mio papà era morto in un bombardamento, no? E quindi eravamo sfollati, ci diceva così, dagli zii, no? E quindi poi la mia mamma si era sposata e sono andata a scuola lì ancora in piedi, bombardamenti, si andava, si interrompeva la lezione, si andava a rifugio e dopo hanno addirittura chiuso le scuole. Io sono tornata dopo. Sì, vorrei dire io una cosa velocemente. Io in questi anni ho dedicato parecchio tempo alla ricostruzione della storia della mia famiglia, cioè i loro antenati in sostanza, perché loro hanno dimenticato tutto, invece io non so da dove venivo. Quindi mi sono dedicato all'800, 700, registri, eccetera. Ho ricostruito un po' la mia genealogia. Però la cosa interessante di questo libro è che mi ha consentito invece di ricostruire la storia recente, diciamo. E leggendolo ho anche apprezzato moltissimo il fatto che è fatto molto bene dal punto di vista scientifico e in maniera distaccata, ci sono appunto le interviste, e questo è anche importante perché ci si stacca un po' da quel racconto che molto spesso poi dopo si riempie di poesia, di retorica, eccetera, invece qui veramente ci sono queste raccontate. Poi anche la tempestività è molto importante, perché veramente molte di queste persone se lo vengono beccate in tempo, poi non c'erano più e non si poteva più raccontare questa storia. Quindi voglio ringraziare particolarmente Fabian per questo lavoro così prezioso. Chiaramente già potremmo dire che comunque già è troppo tardi, perché se questo lavoro fosse stato fatto una decina di anni fa sarebbe stato molto più ricco, eccetera. Però evidentemente il terreno non era ancora pronto e mancava il giovane volenteroso. C'è qualche altro intervento? Nel frattempo salutiamo Cornelia Brucker, che è consigliera comunale di Brunico in carica e quindi anche una figura istituzionale. Grazie di essere venuta, Cornelia. Prego. Volevo solo far presente una cosa, che durante uno degli ultimi incontri che abbiamo fatto con l'associazione abbiamo parlato anche a Brunico, oltre a Sante Bolzano e Sante Merano, adesso non è Brunico, ma parte del tema dell'Alpino, durante una serata che si chiamava Hoi Bastl, che era memoria storica a Brunico in Sottirolo, di cui un signore di Brunico che lavora in catastro e fa un'università a distanza si è un po' interessato a questa storia dell'Alpino, e sono uscite, diciamo, due o tre cose che vorrei dare qui perché sono detto molto interessanti. Cioè, erroneamente si pensa che sia un monumento solo, in realtà i monumenti sono quattro, no? E che ogni monumento corrisponde a delle motivazioni e suggerisce delle associazioni diverse, quindi Vashti è una cosa che rimane, invece un monumento non sono quattro differenti. La seconda cosa è che sicuramente il primo che è stato creato e l'ultimo hanno due funzioni completamente differenti, quindi come diceva il signor Spagnoli prima, è proprio vero che è un monumento che registra, qui ho apprezzato molto la Fenezia perché è un monumento che registra quello che è successo in quasi ormai 80 anni di storia della città. La terza cosa è che abbiamo deciso che forse vogliamo fare anche un testo su questa cosa, perché nel momento in cui c'è stato poi il contatto col pubblico, un signore fa: io la mattina stavo andando alla Naia, mi sono alzato alle 5 invece che alle 7, mi sono arrivato quella statua, sarebbe bello poterla raccogliere tutte e costruire forse un principio di storia condivisa, non che dovremmo essere tutti d'accordo su quello che è successo, ma sul fatto che proprio certi luoghi, certe situazioni sono stati vissuti in maniera diversa, ma il fatto che comunque quei posti ci sono, quelle cose ci possono legare. Quindi come associazione andremo poi anche, o proveremo almeno ad andare anche nella direzione di dare un significato anche alla piazza Cappuccini, andando verso una rielaborazione storica condivisa di quello che è stato. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Grazie Leone. Parlava dell'Alpino, ma io ho l'esperienza, abitavo lì in quel periodo, abitavamo in una casa a sé stante proprio a 200 metri da Piazza Cappuccini. A un certo punto erano le 2-3 di notte, sentivamo un boato. No. Ora cosa succede? E allora siamo andati a vedere la finestra, c'era la neve, nevicava, e lì alla Piazza Cappuccini si vedeva la gente che così, questa è l'esperienza. Poi un'altra, quando è arrivata una camionetta con militari, chi è così, questa esperienza di sì. Storia tragica, insomma. E noi siamo andati via nel 68, ci hanno trasferito a Silano, lui era lasciato via, no? Siamo stati 7 anni, poi siamo tornati, insomma, è con questo libro. Tornare, perché no, lui è nato per Sannone, io sono cresciuta a Lupo. Ecco, raccontata così semplicemente, così coinvolgente. Beh, è un complimento Fabio, bisogna dire qualcosa qui. Forse no, per concludere direi che queste poche esperienze, queste poche voci sono proprio lo spirito che mi ha reso anche più contento di aver fatto questo lavoro, perché alla fine non è sicuramente una traccia definitiva, è un primo passo, uno sprono a ripensare la propria storia, a pensare che magari anche la propria storia ha dignità di essere raccontata e ricordata, che non esiste la banalità della storia, perché la storia è costruita dalle storie dei singoli. E chiaramente, essendo una prima traccia, io sono poi molto curioso e anche intenzionato a svilupparla ulteriormente, raccogliendo le prossime testimonianze, per cui io ho già in mente, diciamo, un prosieguo in questa narrazione, con alcune modifiche, con alcune parti che rimarranno, diciamo, sulla traccia di questo libro, che tratti appunto del secondo dopoguerra, un contesto un po' diverso, molti più testimoni, però lì bisognerà iniziare a fare un po' delle scelte di argomento, delle scelte stilistiche, eccetera. Comunque, insomma, spero che appunto sia stato una piacevole lettura, o che sarà una piacevole lettura, potete non è ancora finita, perché adesso interviene ancora. Per chi non ce l'avesse ancora, abbiamo qui alcune cose. No, volevo soltanto dire appunto che la nostra permanenza al pubblico da parte degli italiani non era certo molto facile, soprattutto durante il tempo di guerra, perché è venuto fuori che l'8 settembre gli italiani avevano tradito un patto che era già in atto con italiani e tedeschi insieme. Beh, allora veramente noi non abbiamo vissuto un bel periodo, perché dovevamo fare certe strade un po' traverse per non incappare nella famosa banda dei Crepaz, perché Crepaz c'è ancora adesso, non lo sa. Sì, sì, sì, c'è un Crepaz particolarmente. Ecco, quindi erano. Adesso sono persone bellissime, persone. Anche in modo, ma allora fra quelli e i loro amici noi dovevamo cercare di fare strada attraverso, perché altrimenti non si riusciva mica a passare davanti a Crepaz. Questo era, cioè, una testimonianza di come veramente non eravamo tanto, non solo ben visti, ma neanche il fatto di circolare liberamente. Vorrei ricordare che Crepaz è un nome di Libinallongo, quindi è un nome ladino, podom, e come come spesso succede, quindi si nota che l'estremizzazione è di persone che hanno un'origine che non dovrebbe portare all'estremizzazione. Questo era, non era uno di madrelingua tedesca di estrazione, la sua famiglia era sicuramente ladina. Ma questi sono i Crepaz, ormai poi le cose si evolvono, cambiano, e devo dire che è molto interessante, poi ti lascio la parola Correde subito, molto interessante questa considerazione fatta da Fabian, perché poi le storie sono un susseguirsi. Io che ho vissuto Brunico negli anni 80-90, e già erano persone molto diverse da quelle che c'erano negli anni 50 e 60, ma non meno meritevoli di avere un loro posto nella storia, no? Ovviamente ogni generazione ha le sue, e vorrei anche evocare brevemente una riflessione rispetto ai tempi, perché Fabian ci raccontava di come negli anni 30 c'è stata la sostituzione dei funzionari di lingua tedesca con funzionari di lingua italiana anni 20, anni 30, perché col fascismo c'è stata l'italianizzazione delle istituzioni. E vorrei ricordare che negli anni 70, cioè circa 40 anni dopo, all'inizio degli anni 70, 40-45 anni dopo, col pacchetto la sensazione avuta dalla popolazione italiana d'Alto Adige è stata quella opposta, perché ovviamente il pacchetto tendeva a riequilibrare la presenza dei lavoratori dell'ente pubblico, e quindi c'è stata una fase in cui gli italiani venivano assunti di meno e i tedeschi di più, quindi c'è stata una sensazione nelle famiglie, nelle persone, in senso opposto, con presupposti completamente diversi, ovviamente con tutti i distinguo del caso. Quanto tempo è passato da quando è stato applicato il pacchetto? 45 anni. Quindi è passato da quando è stato applicato il pacchetto a oggi lo stesso tempo che era intercorso da quando lui diceva che gli italiani avevano preso il posto dei tedeschi nelle istituzioni, e quindi la storia è chi direbbe mai che è passato così tanto tempo? Però è passato lo stesso identico tempo. Adesso prego Cornelia. No, io volevo solo dire che quando è stato presentato il libro a Brunico, la vecchia palestra era affollata, era piena della gente che era proprio dovuta rimanere in piazza perché non riusciva più a entrare. Non ho mai visto una cosa culturale, uno spettacolo culturale, una iniziativa che ha riunito così tanto come la presentazione di questo libro. E questo veramente è stata una cosa fantastica, fenomenale. Io ero lì con una emozione incredibile, perché ho visto anche vecchi italiani, vecchi nel senso, scusate la parola, però persone più grandi, persone più grandi, che si sono rivolti la parola per la prima volta, anche perché c'erano dei raccori. E però si sono visti nello stesso libro, si sono visti avendo fatto la stessa, sulle spalle, la stessa storia. E questo, ecco, così come non so come l'avete fatto, perché purtroppo sono venuto anche adesso, però si vedeva, si sono visti anche sulle foto uno vicino all'altro. E questo è una cosa che proprio oggi è così importante, no? Perché quello che siamo riusciti a avere, e negli ultimi anni abbiamo perso di nuovo questo stare insieme, cioè fra tedeschi e italiani, e questo è un'iniziativa fantastica. Vivo poi, io spero tanto che questo lasci le sue tracce, e aspetto il prossimo libro. Bene, direi che con queste parole, Fabian, chiudiamo questa serata. Se vuoi dare l'ultimo saluto. Sì, beh, veramente poche parole per ringraziarvi comunque per essere venuti. Eravamo fra pochi intimi rispetto a Brunico, però benissimo così. Alla fine è sempre interessante vedere che qualcuno ha sempre qualcosa da dire, qualcosa da aggiungere, e che in fondo è lo spirito stesso di questo libro, cioè come detto, un primo passo per ripensare la propria storia senza cancellarla, senza mancare di sottolineare momenti bui, momenti difficili, momenti di tensione, però in qualche modo con uno spirito propositivo verso il futuro, verso il presente. Grazie.